24 mattino di Alessandro Milan. Le 7 e 22 minuti, eccoci qui cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 come di consueto. Oggi nel nostro sondaggio parliamo di legge Basaglia e di malattia mentale. Ebbene sì, perché vi chiediamo, secondo voi andrebbe rivista la legge Basaglia? Sapete, quella che, come si dice, brutalmente ha chiuso i manicomi nel 78, più di 30 anni fa. Vi chiediamo che ne pensate, se andrebbe rivista. Votate su radio24.it, ne parliamo poi alle 8.30, anche prendendo spunto da un fatto di cronaca di un paio di giorni fa, un fatto brutto di cronaca. E che dire, iniziamo dalla lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Mercoledì 17 novembre, aiuti europei alle banche irlandesi, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Si sta molto discutendo della situazione dell'Irlanda, debitoria, una situazione difficile. E poi le aperture dei giornali si dividono tra la politica e la strage di Piazza della Loggia, che è arrivata al verdetto con tutti assolti. Camere al voto insieme sulla fiducia, l'apertura del Corriere. Crisi congelata per un mese, questo per Repubblica. Napolitano, intesa sulla crisi. Mentre c'è chi apre come il Fatto Quotidiano proprio con la foto di Piazza della Loggia. Vergogna. Così anche l'Unità, la foto delle vittime di Piazza della Loggia, cancellati. Vedremo anche altre aperture dei giornali. Io intanto voglio segnalare che il Corriere della Sera intervista con Paolo Salom Aung San Suu Kyi. Lo fa al telefono, il premio Nobel per la pace birmana, liberata dopo anni di prigionia, gli arresti domiciliari. Un microfono e tanto lavoro, così farò la mia rivoluzione gentile. Aung San Suu Kyi intervistata al telefono, ancora questo suo problema col cellulare, non so bene ancora come usarlo, da che parte si deve parlare. Così inizia la conversazione in un inglese oxfordiano con il Corriere della Sera. Dice: mi sento bene, sto benissimo, grazie a Dio sono riuscita anche a ascoltare la radio per tutto questo tempo, perché non ero in carcere. E poi vedete la straordinaria semplicità: ha fatto il giro del mondo, la sua prima camminata verso la cancellata della villa. Ci può dire che pensava in quegli attimi? Ma non avevo pensieri particolari, ecco, no, ho pensato che stavo per rivolgermi a un sacco di gente e non avevo un microfono, per questo ero un po' preoccupata. E poi ancora dobbiamo l'appello all'unità, dobbiamo riuscire a ritrovare l'unità nell'opposizione e nel paese. Una bella intervista che vi segnalo a Aung San Suu Kyi a pagina 19 del Corriere della Sera. Un'altra segnalazione è la questione legata al maltempo del Veneto. Perché? Perché purtroppo il Sole 24 Ore fa sapere a pagina 11 che intanto a Vicenza c'è una giornata di paura, una città stanca, sgomenta, così è definita Vicenza. Ieri ancora il livello del Bacchiglione è salito da 4,6 a 5,10 metri in poche ore. Il comune ha fatto chiudere alcune scuole. Purtroppo nei prossimi giorni si prevedono ancora piogge e ci sono anche le imprese all'attacco sugli obblighi fiscali, pagina 11 del Sole. Perché bene i 300 milioni stanziati, ma lo stop ai versamenti fiscali nel Veneto colpito dall'alluvione rischia di arrivare in ritardo. E dunque le imprese si sono arrabbiate perché sono stati abbandonati gli automatismi finora abituali in caso di disastri naturali, per cui fa scattare la moratoria bastava la dichiarazione dello stato di calamità, mentre per il Veneto si è imboccata una strada più complessa. Il commissario Zaia infatti dovrà inviare all'economia e al lavoro entro 15 giorni una lista delle imprese danneggiate, i ministeri decideranno poi caso per caso. Peccato che per esempio il 30 novembre scada il termine per il secondo acconto pare al 60% di IRPEF, IRAS, IRES e IRAP. E allora che si fa? Si devono pagare le tasse nel frattempo? E dunque le imprese all'attacco sugli obblighi fiscali. Ma attenzione, segnalato sia sulla Stampa pagina 24 sia su Libero in un'intera pagina, pagina 18, è in arrivo, pare, Angelina Jolie. Non vedete che c'è zecca Angelina Jolie, come direbbe Di Pietro con il maltempo. Beh, Angelina Jolie ha fatto un film a Venezia di recente, pare stregata col suo Brad Pitt dal Veneto e anche dalla Valpolicella nella zona di produzione dell'Amarone, in particolare di Villa Costanza in provincia di Verona, San Pietro in Cariano. E allora Angelina Jolie, non lei, per sfortuna di Zaia o qualcuno del suo staff, ha contattato il governatore Zaia per vedersi nei prossimi giorni, paragonando la tragedia del Veneto a quella di New Orleans. E Angelina telefona a Zaia. Ora dico, io spero che in Italia non trasformeremo tutto questo in un circo. Se però serve a tenere alta l'attenzione sul problema l'arrivo di Angelina Jolie, l'accoglieremo a braccia aperte. Pubblicità e meteo. In primo piano. Su tutti i giornali, su tutte le prime pagine dei giornali oggi troverete delle foto che ci riportano a un'Italia di tanti, tanti anni fa. 28 maggio 1974, l'attentato in Piazza della Loggia a Brescia. E perché? Perché c'è stata l'assoluzione, incredibile dopo tanti anni, non tanto l'assoluzione, ma incredibile che dopo tanti anni ci sia un processo, una sentenza. 36 anni dopo, anche la strage di Brescia resta senza colpevoli, così apre in prima pagina per esempio il Corriere della Sera. 36 anni e molte udienze dopo c'è un commento di Corrado Staiano, la nuova ferita, che vergogna. 36 anni dopo neppure un barlume di giustizia. Chissà cosa pensano i ragazzi di oggi, cosa penseranno quelli delle generazioni future di uno Stato che in un tempo così lungo non ha saputo difendere i suoi cittadini uccisi da una strage fascista nel terribile Novecento. L'impotenza di una corte d'assise ferisce il cuore. Il nulla dopo due anni di dibattimento, 166 udienze, migliaia di testimoni ascoltati dai giudici di Brescia. Gli imputati erano un generale dei carabinieri, allora capitano, Francesco Delfino, un ex parlamentare del Movimento Sociale, Pino Rauti, un medico, Carlo Maria Maggi, un imprenditore diventato giapponese, Delfo Zorzi, e altri estremisti neofascisti, anche uomini di servizi segreti, spioni, personaggi equivoci. Così racconta Staiano. C'è una bella pagina di Luigi Ferrarella, pagina 3 del Corriere, che riassume, ricorda tutte le fasi di questa travagliata inchiesta fin dall'inizio, fin da quando fu dato l'ordine di pulire subito, improvvidamente, la piazza dopo l'attentato, cancellando così preziose indicazioni sull'esplosivo utilizzato. E ci sono tante interviste, per esempio parla a Repubblica Guido Salvini, che ormai 20 anni fa è stato il primo giudice istruttore a Milano, ha rimesso le mani nelle inchieste sulle stragi. A pagina 4 di Repubblica dice: è indiscutibile come da tutte le sentenze sia emersa la difficoltà di arrivare al singolo responsabile, ma è chiaro che su quelle stragi c'è la mano dei servizi segreti. Questo è il punto di partenza, anche se a mio modo di vedere il Fatto Quotidiano, come detto, titola vergogna in prima pagina con una foto proprio scattata in quel 28 maggio 74, poco dopo l'attentato, così come l'Unità mette cancellati una foto simile in prima pagina. E c'è il ricordo, secondo me più bello, affidato a Giovanni Maria Bellu, da Maglio Milani, che è il presidente dell'Associazione delle Vittime di Piazza della Loggia. Maglio Milani un giorno, racconta l'Unità, lo incontrò, Delfo Zorzi, colui che si è rifugiato in Giappone, ha cambiato nome, oggi si chiama Roy Hagen e fa l'imprenditore. Era il 12 novembre del 2002 e Maglio Milani scoprì che Delfo Zorzi doveva presentarsi a un processo in Giappone, nel quale non era imputato ma parte lesa. L'imputato era infatti un corrispondente del Manifesto e della RAI, Pio D'Emilia, che Zorzi aveva querelato per il danno all'immagine. E allora che ha fatto Maglio Milani? Ha preso un aereo, è andato in Giappone, è andato a vedere quest'udienza e ricorda all'Unità: ricordo perfettamente, finita l'udienza mi avvicinai a Zorzi, che stava uscendo dall'aula, e gli urlai: dottor Zorzi, rappresento i familiari delle vittime delle stragi. In mezzo ai due c'era un vetro blindato e quindi ricordo perfettamente, dovetti ripeterlo: dottor Zorzi, rappresento i familiari delle vittime, mi ascolti, non le rivolgo alcuna accusa. Non dico che lei è colpevole, non ho desideri di vendetta, ma torni in Italia, accetti il processo, perché l'Italia è un paese serio, i giudici sono seri e difendersi è anche suo interesse. Impossibile dimenticare quell'espressione stupefatta e sgomenta e quel tono incongruo di Delfo Zorzi, come di uno che un po' si vergogna. No, no, i giudici italiani sono inaffidabili. Finì lì, perché arrivarono i poliziotti e l'aula fu sgomberata. Per Maglio Milani fu come una specie di sogno febbrile. 22 ore di aereo in 3 giorni, su e giù in un fuso orario di 8 ore, per quell'incontro di pochi secondi. Uscendo dall'aula disse una frase incredibile: strano, ho risentito il rumore della bomba. Così racconta Maglio Milani nell'articolo di Giovanni Maria Bellu sull'Unità. E oggi è profondamente amaro. Iena, Riccardo Barenghi, sulla Stampa, pagina 3, Brescia, fu suicidio. Veniamo alla politica. La politica ha trovato ieri una data, che è quella del 14 dicembre, dove il giorno in cui Camera e Senato voteranno contemporaneamente la fiducia. Il giornale è molto esplicito: il giorno del giudizio. Questo è il titolo di prima pagina del giornale. È una data che è stata trovata, come racconta Dino Pesole su Sole 24 Ore, a pagina 5, in un colloquio tra i presidenti di Camera e Senato e il capo dello Stato ieri al Quirinale. Un colloquio che, secondo Repubblica, ha avuto anche momenti di tensione. Pagina 7, Francesco Bei racconta in un retroscena una lite vera e propria tra Schifani e Fini davanti al capo dello Stato, con Schifani che dice a Fini: tu non sei super partes, gridandogli in faccia, e Fini che risponde: e a te fa difetto la sensibilità istituzionale. Sta di fatto che è stato trovato questo 14 dicembre, il giorno prima, il 13, Berlusconi farà le comunicazioni a Camera e Senato, e il 14 si voterà. Tra l'altro, il Sole fa notare, come tutti i giornali, che il 14 è anche il giorno in cui, più o meno nelle stesse ore in cui a Montecitorio e Palazzo Madama si voteranno le mozioni di sfiducia e fiducia, al Palazzo della Consulta la Corte Costituzionale comincerà l'udienza sul legittimo impedimento. Insomma, capite che questa data, 14 dicembre, non che il legittimo impedimento si decida il 14, la pronuncia della Corte, può darsi che slitti anche dopo Natale, però è chiaro che il 14 dicembre a questo punto diventa la data un po' di svolta di questa legislatura. Berlusconi al voto se non passa il governo e decide di non parlare in televisione, racconta Marco Galluzzo sul Corriere. Doveva essere, qualcuno dice oggi, a Matrix, in realtà a Matrix non andrà, e andrà proprio il 14 dicembre a Matrix. Da qui al 14 dicembre che succede, cari ascoltatori? Questo sognatevelo, segnatevelo tutti i giorni. Iniziano le voci e di eventuali passaggi di casacca, per chi le vuol chiamare compravendita, con un'accusa però anche grave le chiami compravendita, di parlamentari, perché i voti contano. E quindi ecco qui, già si inizia, e vedrete che sarà un mese molto intenso da questo punto di vista. 7 deputati nel mirino, ecco il calciomercato su Futuro e Libertà. Pagina 5 della Stampa, Amedeo La Mattina racconta che già c'è un deputato, il deputato Angeli, eletto in Argentina. Il deputato Angeli lascia Fini, voglio Silvio, è il primo acquisto tra mille virgolette, perché questo deputato Giuseppe Angeli, eletto in America Latina, ha fatto una conferenza stampa, ha detto: sono passato con Fini, è vero, ma ora torno con Berlusconi. L'Unità è più precisa, pagina 11, ecco qua, recuperato Angeli, e il prossimo che potrebbero recuperare è Misuraca. Nomi che, ripeto, magari dicono poco, non sono parlamentari notissimi. Commercialista palermitano, portatore di 18.000 voti, a cui Casini sta facendo la corte per consegnargli le chiavi del partito in Sicilia, mentre il Cavaliere è preoccupato e rilancia: gli si dà un posto da sottosegretario. Questo sarebbe il prossimo possibile passaggio, Misuraca. Anche Libero, brividi tra i finiani, inizia il controesodo verso il Cavaliere. Si comincia dal futurista Angeli, che si pente: lascio Futuro e Libertà, torno nel PDL. Ma oggi, per quel che riguarda la politica, se volete l'analisi, più che l'attacco, mi viene da dire l'analisi, perché un po' è buffa, la trovate a firma di un grande giornalista, Stefano Lorenzetto, a pagina 6 del giornale. Allora, il titolo di prima pagina è un po' da spiegare. Il titolo di prima pagina del giornale è questo: il ribaltone dei cigni fanfaroni. Cigni fanfaroni, che cos'è? È l'anagramma di Gianfranco Fini. Fenomenologia dei cigni fanfaroni. Ecco qua, pagina 6, un'intera pagina di Stefano Lorenzetto, e trovate tantissime foto di Fini che fa delle gestualità con le mani. Che cos'è? È una vera analisi fisionomica di Gianfranco Fini. E Lorenzetto lo dice: poiché sono nato nella città di Cesare Lombroso, padre della fisionomica, ho appreso da tempo l'insana abitudine di osservare la postura, la mimica, l'oratoria, i vezzi, i tic del presidente della Camera. Ed eccolo qui, allora, l'analisi, la postura. I mutamenti di postura sono più espressivi di qualsiasi discorso. È l'unico leader capace di ruotare il busto mentre parla di 45 gradi a destra e a sinistra. Le dita, i movimenti delle mani di Fini sono la prosecuzione del TG1 per non udenti, indici che arrivano a congiungersi di punta. oppure i segnali per mascherare la contraddittorietà dei suoi pensieri, Fini ne usa un armamentario illimitato, cioè la presa di potenza unisce i 5 polpastrelli di una mano rivolti a cucchiaio verso di sé, o la presa di precisione a vuoto, pollice e indice che si giungono ad anello, come nell'ok degli americani, i palmi in su con cui implora il consenso dell'uditorio, i palmi in dentro con cui abbraccia i propri concetti, i pugni chiusi per evidenziare il senso di incrollabile determinazione. E poi le locuzioni, le abitudini, gli accessori, una pagina intera di analisi fisiognomica di Gianfranco Fini, anzi di Cigni Fanfaroni, il suo anagramma. È pieno nelle pagine dei giornali della vicenda Saviano Maroni. Saviano, vieni via con me, che ha avuto uno straordinario successo di pubblico. La replica di Maroni, le accuse alla Lega. Maroni accusa Saviano allarmato. Maroni dice: è una vergogna, voglio replicare. Oggi c'è il CDA della RAI. Ci sono molti giornali, molti articoli sui giornali su questo. L'accusa di avere fatto accuse infamanti per Saviano, che replica in un'intervista a Repubblica, dice: è un attacco del tutto immotivato quello di Maroni, intervistato da Goffredo De Marchis. Dice Maroni: mi dice, mi guardi in faccia se hai il coraggio. Mi ricorda un altro episodio, racconta Saviano, quando scrisse una lettera a Sandokan, Schiavone, dopo l'arresto del figlio, lo invitavo a pentirsi e l'avvocato di Schiavone mi rispose: voglio vedere se Saviano ha il coraggio di dire quelle cose guardando Sandokan negli occhi. Per la prima volta riascolto quell'espressione sulla bocca del ministro dell'interno. Parole inquietanti. Io posso guardare negli occhi a tutti. E poi dice: ho solo parlato di una inchiesta dell'antimafia, ho segnalato che un politico leghista ha incontrato il boss Pino Neri, ma non è stato arrestato questo consigliere leghista, l'ho detto. Ho raccontato la penetrazione dell'andrangheta a Milano, gigantesca. Ho citato un'intervista di Miglio in cui si propone di costituzionalizzare la mafia. Insomma, ha fatto questo, le accuse di Maroni sono sbagliate. Ma dopo il traffico ci torneremo, perché intervistato dal Corriere parla anche il direttore generale della RAI, Masi, mentre Libero titola così: Saviano ha rotto i Maroni. In primo piano. Gli ascolti non sono tutto, trasmissione politica, ora applichino le regole. Il direttore generale della RAI Masi parla in un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Paolo Conti. Sì, certo, c'è il pubblico, ovvio, complimenti per gli ascolti a Fazio e Saviano, ma ci sono altri temi che oggi sottoporrò al Consiglio di Amministrazione. Beh, lei è il solito censore in agguato. Respingo l'epiteto, dice Masi. Mai fatta una censura preventiva. C'è una questione di regole ed è un servizio pubblico. Deve osservare l'equilibrio, il contraddittorio, il pluralismo. Chiederà spazio per PDL e Lega? Ho detto ciò che ho detto. Bisogna dar spazio, per esempio, a chi chiede altre espressioni, il liberalismo, il federalismo. Beh, insomma, quindi è una risposta questa. E riguardo alla vicenda di Maroni, di questo parleremo in consiglio. Ritengo personalmente che abbia pienamente titolo e diritto a ribattere a Saviano. Insomma, Masi che dice: oggi ne vedremo delle belle in consiglio di amministrazione, mi pare di capire. Ma il più duro di tutti è Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, firma il metodo Gomorra in prima pagina sul giornale. Rai 3 inaugura il metodo Saviano, edizione rivista e aggiornata del metodo Santoro. Con frasi allusive, ricostruzioni parziali, narrazione mischiata a cronaca, si lascia intendere all'ascoltatore che tra il soggetto in questione e la mafia c'è un certo feeling, se non addirittura complicità. La lezioncina di un signore Saviano che la mafia l'ha studiata al punto da mutuarne metodi e scopi. Sentite che scrive Sallusti. Il suo infatti è stato un monologo politicamente e culturalmente mafioso contro un grande partito, la Lega, guarda caso in queste ore unico fedele alleato di Berlusconi. Saviano è il nuovo padrino della cosca che ha infiltrati ovunque, nei giornali e nelle TV, nell'ordine dei giornalisti che guarda, ascolta e ovviamente a loro e solo a loro lascia fare. Questo scrittore sopravvalutato, ormai preso solo da se stesso, ci ha spiegato che la Lega è contigua alla mafia. A difenderci dobbiamo dal metodo mafioso di Saviano. Beh, queste sono le parole e la terminologia usata da Alessandro Sallusti nel suo editoriale, molto duro. Per la verità anche Avvenire è durissima nei confronti di Vieni via con me, straripa la faziosità, questo è il titolo di prima pagina di Avvenire. In questo caso viene accusata quella che viene definita dal quotidiano dei Vescovi la TV eutanasica, senza voce i malati e le loro famiglie. Sotto accusa è il fatto di aver dato voce a Beppino Englaro, a Mina Welby e non ad altri. Infamia, da Saviano chiedo diritto di replica per Avvenire, queste Maroni, ma soprattutto anche gli attacchi alla vita con la puntata giudicata pro-eutanasia. Vabbè, vedremo oggi il Consiglio di Amministrazione che dice. Io ricordo che il Sole 24 Ore apre e dedica molto spazio all'Irlanda, è il tema molto molto interessante finanziario di cui si discute in Europa, gli aiuti europei alle banche irlandesi. Adriana Cerratelli ne parla, pagina 3, Irlanda sul piatto, ci sono 100 miliardi. Il messaggio rassicurante ai mercati dell'Eurogruppo, sventolando gli sforzi di aggiustamento in corso in Irlanda, dove entro fine mese, ha precisato il presidente Jean-Claude Juncker, saranno varate misure correttive per 15 miliardi in 4 anni, con possibilità di altre supplementari in Portogallo, dove il deficit sarà ridotto del 4,6% nel 2011, in Grecia, dove il risanamento appare sulla buona strada. Secondo indiscrezioni, racconta la Cerratelli, il piano di salvataggio dell'Irlanda potrebbe arrivare a 100 miliardi di euro. 100 miliardi di euro. Metà a sostegno delle banche, metà dei disastrati conti pubblici tartassati da un deficit del 32%. Io voglio andare a due segnalazioni conclusive, se ce la faccio. La prima è da Repubblica, riguarda lo sport, il calcio, ma una vicenda in realtà della Fiorentina anni 70, definita una squadra di malattie e maledizioni. Beatrice, il giallo nel calcio, è la vicenda di Bruno Beatrice, la cui vedova da anni combatte dicendo è stato ucciso per che cosa? Per, in questo caso, concetto vecchio, racconta su Repubblica, ucciso da troppi raggi X, i raggi Röntgen, a cui fu sottoposto nonostante il radiologo, un illustre ortopedico, gli disse non farlo. Ora la vedova sta per depositare al Tribunale di Firenze una richiesta di risarcimento danni di 10 milioni di euro in solido nei confronti dell'allora allenatore della Fiorentina Carletto Mazzone, del primario di allora Calandriello, del radiologo Renzo Berzi, dei vertici della ex Fiorentina poi fallita, della Federazione Gioco Calcio, dell'ASLA, insomma coloro che secondo la vedova indussero a vario titolo il proprio marito Beatrice a sottoporre forse la terapia di raggi X per recuperare da un infortunio, e questo, dice la vedova con una serie di perizie, l'ha ucciso. Beatrice, ucciso dai raggi X, Mazzone paghi 10 milioni. Mazzone con altri in solido. Questo racconta Repubblica in una storia, pagina 22. Mi fermo qui, ricordo che oggi parliamo di legge Basaglia nel nostro sondaggio. La legge Basaglia, secondo voi, è da rivedere, quella che ha chiuso i manicomi? È da rivedere. Votate il sondaggio su Radio24.it, ne parleremo alle 8.30. E ora il GR 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.21. Saluto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Davide Boni. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Della Lega Nord. È arrabbiato con Saviano? Oggi la Padania titola "La RAI è cosa loro". Che ride, presidente? Perché? No, io non sono arrabbiato con Saviano, sono arrabbiato, se vuole, con la RAI, che ha fatto passare questa cosa, ma se ne deve assumere la responsabilità. Siamo di fronte a un canale pubblico, per cui io credo che di fronte, che quando si trasmettono alcune cose sui canali pubblici ci sia il diritto di poter anche replicare rispetto a queste cose. Cioè Maroni dovrebbe avere diritto a che cosa? A intervenire in trasmissione? Ma penso che non ci sia nessun problema, perché se Saviano è convinto di quelle cose, le dice di fronte al ministro degli interni, che è leghista, come sono leghista io, e si confronta con lui. Cioè, siamo di fronte a un ministro che arresta quello che mi pare abbia fatto arrestare il maggior, insieme alle forze dell'ordine e magistrati, il maggior numero di mafiosi sul territorio italiano. Ma questo Saviano però l'ha sempre riconosciuto, qualcuno anzi l'ha accusato di dire ma come stai in passato, in varie interviste. Saviano ha sempre detto, dal punto di vista del contrasto alla mafia, questo ministro, ministero Maroni, si è mosso e si sta muovendo bene. Quello che critica è che si fa manifesto di queste cose e si tacciono alcune infiltrazioni molto molto... aragnatela nell'imprenditoria. Ma questa cosa, io, anche su questa cosa è stranissimo, perché anche in Lombardia noi abbiamo avuto una serie di arresti, non ultimi ieri, rispetto a situazioni di malavita che sulla cocaina. Credo che tutte queste cose vengano fatte grazie a un grande controllo, lo sappiamo che ci sono infiltrazioni e grazie agli interventi di intelligence e da parte della magistratura vengono arrestati parecchi uomini dell'andrangheta della mafia o anche coloro che sono collusi. Però dire che tutto è così, è che io non vorrei il passaggio contrario. Questa cosa qui mi ha stupito di Saviano, è un po' come la teoria del Gattopardo, cambiamo tutto per non cambiare nulla, non vorrei fosse questo. E allora dopo diventa un po' più difficoltoso, no? Riuscire a fare un ragionamento concreto anche rispetto all'andrangheta. Saviano però poi dice: io ho citato solo delle inchieste, le inchieste in corso. C'è per esempio questa famosa foto con un presunto boss dell'andrangheta e un consigliere regionale della Lega che peraltro non è neppure indagato, eccetera. Ho citato queste inchieste, cioè che devo fare? C'è un'inchiesta in corso, io l'ho raccontata agli ascoltatori. Sì, ma guardi, io penso che tutti i giorni mi fotografino con qualcuno, e questo è il punto. Se si cita un uomo della Lega Nord facendo intuire che la Lega è collusa con l'andrangheta o interloquisce così come dice lui, non si dà il messaggio esatto, perché questo mio collega del Consiglio regionale non è neanche indagato, è fotografato su una piazza insieme ad altre persone e in mezzo a queste persone c'è questo. Facciamo, cioè, capiamoci, sì, perché sennò diventa facile sparare il gruppo. Allora io dico che a Napoli tutti non vogliono, tutti i napoletani, la colpa dei rifiuti è loro perché non fanno quello che devono fare. Ma mi sembra sbagliato dire questo. Questo sì. Senta, ma lei cosa vorrebbe? Perché oggi c'è il consiglio di amministrazione della RAI, Masi pare, dice, ne parleremo, anche la consigliera Bianchi Clerici, che è data vicina alla Lega, oggi alla Padania dice parlerò del caso. Cioè, chi deve chiedere scusa secondo lei? Masi? Il presidente della RAI? Io penso di sì, che debba chiedere scusa e debba dare la possibilità al ministro di intervenire. Da parte nostra, come consiglio regionale, guardi, io inviterò Saviano in consiglio regionale, visto che dice che la Lombardia è il terminale dell'andrangheta, a raccontarci, perché se lui sa delle cose... sta invitando ufficialmente Saviano a venire? Questo sì, perché se lui sa delle cose, come dice in trasmissione, che io non so che sono il presidente del consiglio, bisogna che tutto il consiglio ne sia, però deve dire le cose come stanno, perché sennò è difficile per lui, Quindi è ufficiale, lei sta invitando Saviano a venire davanti al Consiglio regionale della Lombardia a raccontare ciò che sa o ciò che... Saviano forse dirà, guardate che sono atti di un'inchiesta, io più... Ma lui, siccome le sa lui, perché non dobbiamo sapere neanche noi? Vabbè, magari accetterà questo invito. Vediamo un po'. E poi, e poi vabbè, Masi deve chiedere scusa. Ma la puntata, cioè lei la vorrebbe sospendere? Oppure io questa cosa della par condicio non la sopporto. Già non la sopporto in campagna elettorale, figurarsi questa cosa del contraddittorio per forza. Uno dice quello che vuole e poi se dice qualcosa di sbagliato se ne assumerà le responsabilità. Però credo che debba anche essere data la possibilità a Maroni allora di intervenire, perché rappresenta l'istituzione. Di replicare. Va bene, io la ringrazio, Presidente, per essere stato con noi. Davide Boni, della Lega Nord, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, con l'invito anche a Roberto Saviano, chissà se lo accoglierà, di venire a parlare in Consiglio. Grazie, buona giornata. Ovviamente ci fermiamo per pubblicità e meteo, poi nel nostro sondaggio oggi, partendo da un fatto di cronaca, ma che sarà un po' lo sfondo, fatto di cronaca brutale, con una persona che aveva problemi di mente, acclarati, accertati, ha ucciso il proprio nipotino di pochi mesi, e questo ha riportato il tema in primo piano della legge Basaglia, quella che nel 78 ha chiuso i manicomi, per dirla brutalmente. E qualcuno dice, astuto ha spostato il peso delle malattie mentali, di gestire le persone con malattie mentali, sulle famiglie spesso abbandonate a gestire queste situazioni complicate. Noi vi chiediamo, secondo voi andrebbe rivista la legge Basaglia? Ci interrogheremo su questo in maniera molto pacata tra poco. Se volete 800 24 0024 per intervenire in diretta. 24 mattino. Alle 8:32 minuti, eccoci qua a parlare oggi nel nostro sondaggio di disagio mentale, di malattia mentale e di legge Basaglia. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È la legge che tutti conosciamo, quella del 78, la legge 180, la legge Basaglia, dallo psichiatra Franco Basaglia, quella che, per dire una frase molto sintetica, ha chiuso i manicomi, così tutti ci capiamo. In realtà è una legge molto più complessa, complicata e magari anche non applicata totalmente. Perché ne parliamo oggi? Nel nostro sondaggio vi chiediamo, secondo voi, se andrebbe rivista. Prendiamo spunto, ma lo teniamo sullo sfondo, da un terribile fatto di cronaca avvenuta a Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove una persona di 29 anni che soffriva di problemi, disagi mentali, ha ucciso la nipotina di soli 2 mesi. Era una persona che era da tempo in cura. Io intanto voglio salutare il sindaco di Monte di Procida, Francesco Paolo Iannuzzi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Senta, la domanda che ci si pone tutti, perché ho letto anche qualche articolo sul Mattino, è: la persona era in cura, però i medici dicono non si è trattato di una situazione che poteva essere prevista, prevedibile, non era un allarme non ascoltato, e però si era ipotizzato anche il cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio in passato per questa persona. Lei, che da sindaco dovrebbe firmarlo, il trattamento sanitario obbligatorio, che ci dice? Beh, guardi, lei sa che insomma le problematiche del disagio mentale sono vaste e complesse. La legge, io ritengo giustamente, ha ricondotto in una organizzazione diversa questo tipo di prestazioni sanitarie, e io ne convengo sull'opportunità di tenerli chiusi, ma convengo anche che questo regime vada approfondito, perché i centri di igiene mentale devono essere potenziati e devono più stare sul territorio. Il sindaco spesso è abbandonato, nel senso che a me arriva la richiesta di un trattamento sanitario obbligatorio laddove il paziente dà segni di evidente squilibrio e i vigili urbani o i carabinieri, a seguito di una redazione di un certificato medico, ne richiedono questa obbligatorietà di chiusura, sì, che pesa un paio di giorni di sedativi e vengono rimessi sul territorio, quindi non c'è senso. Sì, certo, un intervento che spesso produce ancora più danni poi successivamente. Però voglio dire, questa situazione, immagino, oltre a sconvolgere un po' la comunità, non so quanti abitanti fate a Monte di Procida. Monte di Procida è un comune di 14.000 abitanti per 3 chilometri quadrati e mezzo, quindi vi conoscete tutti. Abbiamo una densità altissima ed ovviamente questa tragedia ha scosso i cuori di tutti i montesi. Siamo una comunità tranquilla che viviamo nelle regole e con le regole vogliamo guardare con tranquillità il nostro futuro. Veramente questa vicenda ha spezzato i cuori di tutti. Noi abbiamo anche una comunità molto numerosa negli Stati Uniti d'America, e non le dico le telefonate che ho ricevuto, tutte telefonate di solidarietà. Una famiglia giovane, una bambina di poco più di 2 mesi, lei comprenderà. No, ma è chiaro. È chiaro, la situazione di tutti. Dolore di tutti. Noi ne vogliamo discutere, ripeto, questa vicenda, ma stia con noi, sindaco, è sullo sfondo, ma per capire anche i problemi che si trova a affrontare un sindaco in questi casi, con due psichiatri. Il primo è il professor Giuseppe Dell'Acqua, direttore del Dipartimento Salute Mentale di Trieste, ed è unanimemente riconosciuto l'erede di Franco Basaglia, uno degli eredi. Professor Dell'Acqua, buongiorno. Ma sta scherzando? No, vabbè, uno, per dire. Sono ma un modesto lavoratore, vabbè, servitore dello Stato. Va bene, saluto anche il professor Carlo Ciccioli, che è, oltre ad essere psichiatra, è anche un onorevole, un parlamentare del Popolo della Libertà e vicepresidente della Commissione Affari Sociali alla Camera. Professore, buongiorno. Professor Ciccioli. Professor Dell'Acqua, intanto le chiedo, lei, so che un po' si adombra, sempre dice, ecco, quando avvengono questi episodi si mette sempre in dubbio una legge, No. Non mi adombro, trovo molto singolare e purtroppo ripetitivo, e stupidamente ripetitivo, inutilmente ripetitivo, il fatto che da 32 anni si parla sempre alla stessa maniera di questa questione. Cioè, il problema, veda, non è tanto perché è ovvio che di fronte a una comunità, una famiglia che viene sconvolta da questo dramma, bisognerebbe ovviamente ritirarsi in silenzio. Cosa si può dire? Ma certamente non si può dire: oh mio Dio, c'è la legge 180, perché allora io dovrei dirvi: ma avete visto visto quello che succede negli Stati Uniti d'America? Avete visto quello che succede in Germania? Avete visto quello che succede in Inghilterra o in Francia, dove ci sono legislazioni ben più, si direbbe, rigorose o dure o restrittive delle nostre, e dove evidentemente questo fatto, questo evento drammatico che sconvolge le comunità. Io ricordo sempre che noi siamo discendenti di Caino, e Caino ha ucciso Abele, e non c'era la legge 180 quella volta, sì, ed era un delitto in famiglia. Allora vede, e concludo su questo breve, sì, intervento, io credo che sia molto appropriato parlare di questo, ma si è appropriato prendendo le parole del sindaco e prendendo le parole di una infinità ormai di associazioni di familiari, di cittadini, di persone con disturbo mentale, che denunciano il fatto che dietro lo scudo della legge 180, che tra l'altro è una cosa di una estrema semplicità e di un grande rigore etico e costituzionale, si nasconde il fatto che non si investano risorse, che non si facciano i servizi di salute mentale, che le politiche, certo, di salute mentale nei territori siano estremamente carenti. Infatti questo, professore, è la cosa. Il punto è questo. Allora, però, professore, nessuno, io credo che nessuno voglia tornare a dire: ah, ci vogliono i manicomi. Nessuno, cioè, e soprattutto quei manicomi che sono stati raccontati anche straordinariamente con efficacia da Basaglia. Il problema è la denuncia, che so che anche lei condivide, di molti familiari, è che dicono: i manicomi spesso, perché non è stata implementata quella legge, si sono trasferiti in famiglia. Cioè, questo però mi permetta, in maniera brutale, io lo dico. Allora, siccome noi stiamo lavorando, forse lei lo sa, su una carta etica per il giornalismo, eccetera, eccetera, che vorrebbe fare in modo che quando si parla di queste cose, che riguardano 2 milioni di persone, che sono cittadini italiani come me e lei, si avesse rispetto per queste persone e per i loro familiari, che non vivono bene momenti come questi e certamente non sono confortati dal fatto che un giornale possa dire delle cose che ho letto ieri sui giornali, perché coinvolgono l'intera comunità delle persone con disturbo mentale. Allora il problema è entrare nel merito delle cose. Allora è risaputo, e questo io lo dico a lei, non le politiche di salute mentale, le leggi di salute mentale non possono essere determinate dal rischio, dalla pericolosità, sì, o dal dramma che di tanto in tanto viene fuori, ma deve essere evidentemente una necessità proprio di disporre risorse, trattamenti terapeutici e riabilitativi nella comunità, certo, come diceva il sindaco. Se partiamo da quel presupposto, lei dice sta sullo sfondo, però se non ci fosse stato questo fatto, lei non si sarebbe occupato di questa cosa. Ma guardi, ce ne siamo, non dica così, ce ne siamo occupati anche. Ma lo so che il nostro giornale se ne occupa sempre anche in maniera molto ce più ne siamo, adeguata. Ce ne siamo ripeto, occupati in altro. No, ma ripeto, ce ne siamo occupati anche in altre vicende. È chiaro che facciamo anche i giornalisti, quindi i fatti di cronaca esistono. Poi le assicuro, e non devo aggiungere nulla, ma mi creda, è un tema al quale sono molto sensibile. Non le devo certo spiegare il perché. Voglio chiedere anche al professor Carlo Ciccioli, onorevole Carlo Ciccioli, la sua posizione, il suo punto di vista. So che ha anche presentato un disegno di legge, una proposta di legge, che in qualche modo vuole fare che cosa, professore? Non certo tornare alla situazione pre-1978, questo no, però? Dunque, innanzitutto al primo punto c'è questo: gli ospedali psichiatrici, i manicomi, erano frutto di una cultura ovviamente che è ormai completamente superata, e anche della assoluta impossibilità di cura. Cioè, all'epoca in cui furono istituiti le cure non esistevano. Cioè, la cura era la contenzione, era l'esclusione, e un po' più tardi, negli anni 30, furono scoperte, diciamo così, trattamenti tipo l'insulinoterapia, che consisteva nel mandare in coma le persone ripetutamente per sedarle, o l'elettroshock. Quindi appartengono a una cultura e a una conoscenza scientifica che ormai non solo è del secolo scorso, intendendo il Novecento, ma è superata, è passata, fortunatamente la mentalità è passata, di tutti, certo, anche perché quelle istituzioni, concentrando i luoghi chiusi, centinaia e a volte addirittura migliaia di persone portavano all'alienazione assolutamente di queste persone, a meccanismi veramente di istituzionalizzazione che erano all'epoca forse tollerabili, oggi sarebbero assolutamente intollerabili. Il problema è un altro. La prima cosa è questo: la Basaglia è stata una buona legge? A mio parere aveva un obiettivo, cioè chiudere gli ospedali psichiatrici, e quindi da quel punto di vista è stata assolutamente una buona legge. L'obiettivo è stato raggiunto? Quello che ci dice l'osservatorio del Ministero sulla vicenda della chiusura degli ospedali psichiatrici, sì, perché anche se con molta difficoltà e molto tempo, l'ultimo ospedale psichiatrico italiano è stato chiuso recentissimamente. Sì, per la verità nei primi 20 anni, cioè dal 1980, la legge è del 78, ma diciamo l'inizio dell'applicazione fu nel 1980, creare i reparti dentro gli ospedali generali per gli acuti eccetera, ci impiegò un po' di tempo. Da circa 10 anni erano rimasti ormai solo pochi ospedali psichiatrici. Però che cosa non ha funzionato? Qual è il punto che alcuni dicono è un tabù e non si può discutere? E io invece ritengo che bisogna discutere, ma nella direzione di occuparci innanzitutto delle persone che stanno male, che sono quelle che soffrono di più. Il paziente psichiatrico non è una persona che non soffre, soffre tantissimo. Anzi, succede talvolta che si toglie addirittura la vita. E quindi c'è una tendenza all'autodistruzione, all'autolesionismo, all'autosoppressione molto forte, e quindi questo dovrebbe farci capire come stanno le cose. E qual è la sua famiglia, poi mette a volte in pericolo anche la società e anche gli altri, anche le persone qualsiasi. Allora il problema è quello di cercare di normare, la parola norme, e infatti la proposta di legge che io ho presentato, il disegno di legge, si chiama Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica, va nella direzione di rendere, di legificare, cioè rendere leggi, quelli che sono le procedure di assistenza, perché molto spesso c'è da parte delle istituzioni pubbliche, cominciando dalle aziende sanitarie locali, ma non solo quelle, dagli assessorati regionali, cioè una tendenza a dimenticare il problema, una tendenza all'elusione, alla cura. Siccome la Costituzione dice che ogni cittadino ha diritto alla cura e all'assistenza, non si capisce perché in un settore quale potrebbe essere la cardiologia, la pneumologia, l'oncologia, è tutto a posto mentre gli altri. No, questo deve essere una zona grigia. Per cui noi dobbiamo arrivare a delle norme precise che impediscono alle aziende di non fare i centri diurni, di non fare i centri residenziali, di non fare le comunità terapeutiche, tutte strutture di cui c'è bisogno, e poi di curare le persone, e questo mi sento di sottolinearlo perché è il cuore del problema, che non hanno consapevolezza di malattia, perché mentre una persona che soffre di qualche altra cosa ha consapevolezza di malattia, vuole curarsi, vuole decidere e via di seguito. Certo, una persona che ha spesso nel disagio mentale questo non avviene, cioè non c'è consapevolezza. Non ha assolutamente consapevolezza di malattia, quindi non crede di star male, anzi quando viene i familiari insistono che si devono curare o il medico va, se dice ma io non ho niente, sto bene. Voi mi state perseguitando, voi allora siete con me. Si fermi un attimo, devo dare le informazioni sul traffico e poi ripartiamo da qui anche con qualche ascoltatore. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora andrebbe rivista la legge Basaglia, o perfezionata la legge Basaglia, o implementata o applicata meglio la legge Basaglia, come la volete mettere. Secondo l'86% di voi sì, ma io voglio sentire qualche ascoltatore. Enrico da Rimini, da Como? Da Rimini, da Rimini, sì, grazie. Da Rimini. Buongiorno. Dica, Enrico. Buongiorno a tutti. Io parlo di un'esperienza sulla disabilità mentale che è un po' particolare, sono il presidente di un'associazione di persone, di familiari di persone con autismo. Io voglio dire questo: la legge Basaglia è una cosa molto bella, secondo me. Perché? Perché all'interno di una famiglia l'incontro con una persona con disabilità mentale può essere anche molto stimolante e fonte di grande crescita personale dei singoli componenti della famiglia. L'importante è non lasciare sola la famiglia, non far sentire l'isolamento alla famiglia. Questa è la cosa più importante di tutte. Quindi lei dice che non si può criticare una legge che ha permesso, insomma, di vivere il disagio mentale in modo più aperto, più di incontro, più di confronto. Però, assolutamente, l'importante è però che è i servizi dietro permettano alla famiglia di non sentirsi isolata. Certo, grazie, no, Enrico, è sicuramente condivisibile. Voglio andare a Como, per quello che prima l'ho data a lei, a Como, Enrico. Santo da Como, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di essere anche con voi stamattina. Volevo dire, va rivista sicuramente di nuovo per le SPDC, perché mi sembrano dei manicomi gli SPDC. Cosa sono gli SPDC, mi scusi? Il Dipartimento di Salute Mentale, perfetto. Dove si vengono ricoverati attualmente oggi pazienti. Perché a volte lì stazionano anche pazienti per mese e mese, perché non si trovano i posti nelle comunità, a secondo tipo di patologia del paziente, perché magari è a molto alto rischio, fanno la selezione, no? Ci sono delle selezioni. E quindi il paziente viene magari stare lì, è una spesa per la struttura e anche uno stress anche per il paziente, perché il paziente magari vorrebbe anche andare a casa e vuole inserirsi con il suo familiare. Purtroppo devono essere gli operatori ad andare a trovare, per esempio, il paziente a domicilio. Viene fatto, ma quante volte? Poche volte, perché i CPS non ce le fanno, hanno un territorio vastissimo di popolazione. Cioè lei dice è tutto da rivedere. Io non so se, grazie Santo, sindaco Iannuzzi, sindaco di Monte di Procida, lei ci ha già detto un po' che la solitudine di un amministratore, in questo caso, che poi è quello che mette la firma, no? Gli arrivano dei documenti e mette la firma. La solitudine un po' si vede, ma la struttura, cioè è così difficile organizzare delle strutture efficienti per far fronte a questo problema, che è un problema, ci ricordava il professor Dell'Acqua, che riguarda 2 milioni di italiani, 2 milioni non sono pochi. Intanto la competenza è delle aziende sanitarie locali, ma non per questo, ecco, voglio sottrarmi alla sua riflessione, anzi io direi che bisogna partire proprio dalla organizzazione del servizio sanitario. Ahimè, negli ultimi tempi le aziende sanitarie locali ragionano esclusivamente in termini ragionieristici, certamente perché gli sprechi in sanità, e noi in Campania ne siamo stati campioni, ne abbiamo fatti tanti, però oggi la scure dei tagli si abbatte soprattutto in taluni settori, quelli forse meno esposti, ed io ritengo che quello appunto meno esposto è il disagio mentale. Ed allora bisogna fare il discorso partendo dalla prima vera riforma del servizio sanitario, quella dell'833, quando il sindaco era ed è tuttora individuato come autorità sanitaria locale, ma che sia tale non solo di nome, ma anche di fatto, che deve incidere nelle scelte e diciamo nelle strategie delle aziende sanitarie. Cioè, vorrebbe un sindaco invece, più le aziende sanitarie locali rispondono unicamente a scelte di ragioneria imposte dalle regioni italiane, che hanno obblighi di rientro nei sentiamo se su questo il professor Dell'Acqua è d'accordo su questa proposta. Ma sono d'accordissimo e sono d'accordo con i due ascoltatori. Allora devo essere breve, perché vedo che il tempo, sì, abbiamo un minuto e mezzo, non vorrei apparire qua. Può cambiare la legge. Sì. Io dico che esiste una dissociazione fortissima tra quelli che sono le leggi, cioè questa legge che così straordinariamente è stata descritta anche dall'ascoltatore di Rimini e anche dall'ascoltatore di Como, e quello che si fa nelle regioni e nelle aziende sanitarie e quelle che fanno le accademie e le psichiatrie. Esiste questa dissociazione che va presa in esame. Faccio un esempio: io lavoro e ho invitato l'onorevole Ciccioli a venirmi a trovare con la sua commissione, lavoro a Trieste, dove la struttura operativa è organizzata in 4 centri di salute mentale aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, uno ogni 60.000 abitanti. Esiste un diagnosi e cura, che è quel luogo dell'emergenza psichiatrica, che è aperto, dove le persone stanno lì dentro non più di un giorno, perché poi vengono presi in carico dai servizi territoriali. Esistono attività di lavoro e di inserimento lavorativo che, malgrado la crisi economica, continuano a dare possibilità e speranza alle persone, lavorando nell'editoria, nell'edilizia, nei trasporti, nelle pulizie, nel catering e così via. esiste una possibilità di abitare assistito, che non necessariamente va a costituire quei luoghi correnti che sono le cosiddette comunità terapeutiche di 20 persone, di 30 persone felice, che ci sono. È un po' un'isola felice. No, mi perdoni, lei dice tante cose che mi stimolano. Non è un'isola felice. Si può è fare. In Italia, Trieste è in Italia. Prima si può fare, si fa in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. La regione Friuli Venezia Giulia è governata da un governo di centrodestra che continua a ribadire queste indicazioni nel suo piano sanitario, nelle linee di gestione. I familiari, mi permetta ancora una cosa. A 10 secondi però. 10 secondi. Io lavoro con i familiari da circa 25 anni, conosco i familiari di tutta Italia. Ho scritto un libro, non mi faccio pubblicità, che si chiama Fuori come va, che serve ai familiari per capire queste cose. Ma è evidente che i familiari, come quello di Como e quello di Rimini, stanno chiedendo servizi, non stanno chiedendo di perdere tempo a prolungare il trattamento sanitario su questa richiesta di servizi mi devo fermare. Ringrazio davvero tutti e con Antonella Migliaccio in redazione ci sentiamo domattina.